Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza u Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majčeki! Blagane zore, Balkan Rock, Udeverista, Sumaj Radio, Fabrična jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Rock Horror Night per la serata di Halloween. State tutti incollati ai vostri computer, ascoltate Balkan Rock perché questa sera vi faremo terrorizzare. Ecco, hai detto bene, Horror Night ad Halloween. Sentiremo un genere horrorifico che non è death metal, non è horror rock, non è dark, ma è turbo folk. E per parlare di questo fenomeno culturale tipico dei Balcani occidentali abbiamo anche un ospite stasera, anche più di un ospite, abbiamo ben tre ospiti, un appassionato di questo genere. Adesso poi capiremo il perché, il per come, sotto quali punti di vista, chiaramente, per non semplificare. Quindi abbiamo con noi Eric Gobetti stasera. Ciao a tutti. Tra l'altro Eric è già stato da noi a una delle prime puntate di Balkan Rock, sì. Quando abbiamo parlato proprio del caso Magazzino 18 di Simone Cristicchi, giusto. Vabbè, Eric non è solo appassionato, è anche, diciamo, un conoscitore. Un conoscitore, in quanto storico. Un esperto di turbo folk. E poi abbiamo Diego e Chiara, Diego Campora e Chiara Bosco, anche detta Jasna Schuma, che ritornano da noi dopo le vacanze. Sono stati da noi a parlare del loro progetto Nessuno Escluso e questa sera sono di nuovo con noi. Ciao. Ecco, così facciamo un aggiornamento anche su come è andato il viaggio, appunto, in Bosnia e in Serbia, nell'ambito di questo appunto viaggio conoscitivo organizzato insieme all'Associazione Terra del Fuoco. Benissimo, allora come procediamo? Andiamo subito a immergerci in questi suoni, appunto, orrorifici, o dobbiamo preambolo? Buono. Tu mi devi stare buono stasera, Dule, perché sennò scappano le sberle. Io già lo so. È una trasmissione che è balcanica, quindi per forza, insomma, per forza qualche schiaffone deve volare, no? Finirà schiaffi. Sennò... Io e Dusko ci stiamo già guardando in cagnesco, effettivamente, quindi finirà male. Allora, intanto invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a mandarci, insomma, i loro commenti riguardo a questo genere musicale. Tra l'altro, qualche tempo fa abbiamo fatto proprio un sondaggio nella nostra pagina di Facebook riguardo al turbo folk. Poi, come sapete, ci sono stati alcuni problemi, non siamo riusciti ad andare in onda per problemi tecnici legati alla radio e quindi, insomma, abbiamo dovuto posticipare questa trasmissione di ben 2 settimane. Quindi tutti quanti siete invitati a scriverci sulla nostra pagina Facebook Balkan Rock at My Radio e dirci la vostra riguardo al turbo folk. Io direi di andare subito a partire con il primo pezzo che è di Lepa Brena e i Slatki Grek, che si intitola 1000 voli disco. Disco, disco. quindi mille voli disco, aia colo sciumadisco, cioè mille ama la discoteca e io invece amo il colo della sciumadia. Questa era l'Epa Brena, un pezzo del... sarà 85 abbiamo stabilito, 84-85, insomma, sì, metà anni 80. Metà anni 80. L'Epa Brena, che è una dei capostipite della musica turbo folk di cui andremo a parlare questa sera, non è, come dicevamo, microfoni spenti, turbo folk, insomma, con tutti i crismi e con tutti le sonorità del caso, ma è sicuramente, può essere considerata insomma, uno, sì, dei l'inizio, generi, diciamo, l'inizio di quel, perché genere. Il turbo folk, dimmi se sbaglio, nasce proprio dalla musica popolare, dalla Novo Compo Novana Musica, come si suol dire. Sì, beh, in qualche modo è una commistione tra, appunto, la musica popolare, che stava cominciando a diventare un po' più pop con strumenti elettronici come in questo pezzo, e poi invece un utilizzo molto più estremo, diciamo, dello stile pop e della anche la rapidità poi del ritmo musicale, insomma, che aumenta progressivamente nel corso degli anni 90. Quindi possiamo dire che è un filone musicale che nasce negli anni 90, proprio, sì, sì, agli inizi degli anni 90. Bene, io leggo proprio su Wikipedia che al di fuori del filone pop tradizionale, in Jugoslavia, prima in Serbia dagli anni 90, se ne sviluppò anche uno semplicemente pop più vicino allo stile occidentale. Ad esempio, come artisti come Željko Joksimović, che se non sbaglio è proprio di Herceg Novi, no? Non lo so se è di Herceg Novi, però sì, è più la canzone pop con solo qualche vago accenno folcheggiante. Però diciamo la tipologia di pubblico a volte coincide, insomma, turbo folk, quello contemporaneo, è ormai completamente fuso con il genere pop e il genere da discoteca, insomma. Certo. Ormai i confini sono più labili, mentre agli albori aveva questo elemento folk, anche identitario in qualche modo, molto più marcato, insomma, anche perché rispecchiava il clima dell'epoca, appunto, degli anni 90. Ma Eric, io volevo chiederti una cosa. Gli anni 90 è un momento particolare, perché vabbè, per me, io lo dico a inizio puntata, il turbo folk è la trasposizione musicale del capitalismo che si contrappone alla caduta dei muri, e questo lo vediamo in tutte le musiche, dalla Bulgaria alla Romania, lo vediamo in tutti i tipi di musica. Allora, volevo chiederti che rapporto c'è dal punto di vista, perché poi tu sei storico, che rapporto c'è dal punto di vista storico fra il turbo folk e le guerre degli anni 90? Ma sì, innanzitutto qui mi sento proprio circondato da nemici, quindi sono costretto a difendere a sparatratto il turbo folk. No, no, ma io io assolutamente sono una tua, cioè io sono un'ascoltatrice del turbo folk. Brava, ottimo. No, però insomma, no, vorrei dire che da una parte è vero, è come dici tu, dall'altra però credo che ci sia anche, è anche in qualche modo un fenomeno di resistenza culturale alla cultura pop occidentale, cioè un modo per, come dire, accogliere, sì, certe sonorità occidentali, ma farle proprie e trasformarle in una cosa che è puramente balcanica. Cioè il turbo folk non è la musica pop americana, certo. Ha qualche sonorità, può richiamarla in qualche modo, ma non è quello. E se vuoi, questo è un fenomeno che appunto è molto tipico dei Balcani, ma è tipico in realtà di tutta un'area che io ho identificato un po' come l'ex impero ottomano, perché va dal Marocco, dall'Algeria, dopo sentiremo un pezzo di Khaled, fino all'Uzbekistan, al Kazakistan, e che però per esempio non è presente in altre realtà. Ad esempio negli spazi dell'ex Unione Sovietica esiste molta musica pop in lingua russa, ma è musica pop che potrebbe essere assolutamente Britney Spears piuttosto che qualunque altro, Jennifer Lopez, non so, qualunque altro cantante americano, semplicemente cantato in russo. Invece qua ci sono delle sonorità che sono tipiche, che sono, appunto, ripeto, in qualche modo anche un modo di una forma di resistenza culturale, ma anche di imbastardimento di quella che è invece la cultura occidentale, che quindi non vince in sé, ma si trasforma in qualche modo. Ecco, io sono abbastanza d'accordo con quello che dici. Certo è che il confine fra resistenza culturale e nazionalismo è molto, quindi vengo a rispondere alla tua domanda sugli anni 90, che stai cercando di mettermi in difficoltà. No, certamente un elemento molto interessante della musica turbo folk è che è questo legame con come dire, la criminalità organizzata, la malevita, che nello spazio ex jugoslavo ha una straordinaria diffusione legata alle guerre, e quindi anche con gli stessi criminali di guerra. Il confine è molto labile in realtà in quelle aree tra criminali di guerra e malavita e criminalità organizzata. E di fatto, vabbè, il caso più emblematico è quello di Zezza, che è la più famosa cantante turbo folk, che è stata la moglie di Arkan, che è il più famoso criminale di guerra dei Balcani, per cui la loro coppia simboleggia in maniera esplicita una realtà che però è molto presente, che tra l'altro è molto simile a quello che è la musica neomelodica napoletana, tra l'altro sia come sonorità si somigliano, ma anche il fenomeno è molto simile anche a Napoli, anche in campagna c'è questo legame molto stretto tra la musica neomelodica e la criminalità organizzata. Certo. Le pistole, i matrimoni, insomma. Sì, sì, sì, sì, proprio ci pensavo. Il Gigi D'Alessio, assolutamente d'accordo, sì. Serbo. Esatto, ci sono dei paralleli, delle somiglianze. Va bene, allora se l'è sfangata, alle prime domande, diciamo che difficile. Sta resistendo Vijay Erk, perché voi dovete sapere che il nostro ospite Eric Gobetti, oltre ad essere uno storico, è anche un VJ, il suo nome d'arte è Vijay Erk. Passerei al prossimo brano, un brano culto di cult, forse volevo dire, di Rambo Amadeus. Si intitola Turbo Folk. Rambo Amadeus è colui che ha dato il nome con questo brano al appunto a questo genere musicale, e per cui insomma andiamo ad ascoltarci Rambo Amadeus con Turbo Folk. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razbuktavanje najnižih strasti kod homo sapiens. Muzika je miljenica svih muza, harmonija svih umjetnosti. Turbo folk nije muzika. Turbo folk je miljenica masa, kakofonija svih ukusa i mirisa. Ja sam mu dao ime. Ime. Alkohol je turbo folk. Coca-Cola je turbo folk. Pečenje na ražnju je turbo folk. Porno šopovi su turbo folk. Nacionalizam je turbo folk. Rave party je turbo folk. Etno jazz je turbo folk. Folk je narod, Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime. Ime. Adolf Hitler je turbo folk. Trgovina ljudskim organima je turbo folk. Kriminalci su turbo folk. Malboro je turbo folk. Silikoni su turbo folk. Kokain je turbo folk. Džipovi sa niskoprofilnim felnama su turbo folk. Sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razbuktavanje najnižih strasti kod homo sapiens. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime. Ime. Glasački listić koji omogućuje svakoj budali da ga ispravno popuni je turbo folk. Tetoviranje, piercing, body art su turbo folk. Auto otpadi su turbo folk. tre tecchini e turbo fondo. Registrazie e samali mi riocrumi in brevi ma su turbo fondo. McDonald's e turbo fondo. Gladionice su turbo fondo. Brionice caffè su turbo fondo. Zlato i drago camini su turbo fondo. Eurovisia turbo folk. Hipermarketi su turbo folk. Stadioni su turbo folk. Sapunske serie su turbo folk. Modni creatori su turbo folk. Politici marketing su turbo folk. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime. Appunto il nostro amico Rambo Amadeus from Herceg Novi with Love. Ecco, attenzione ai... ok, sì, era Rambo Amadeus. Beh, ovviamente ve ne siete resi conto che questo non è turbo folk, questa specie di trip hop che fa questo artista di origine montenegrina. Lui si occupa di questi fenomeni culturali, affronta spesso in termini caricaturali il turbo folk nelle proprie canzoni, però fa insomma tutt'altro, diciamo, più che altro un critico di questo genere, di queste sottoculture. Quindi c'era questo verso, vuoi tradurlo tu, Vale? Questo verso iniziale? No, lo traduci tu. Dice: folk e narod, turbo e system ubrisgava gnagoriva pod pritisco muzilindar motora sanutrasnin sagorievan. Ecco, dice: folk è il popolo, turbo è il sistema di iniezione del combustibile sotto pressione nel cilindro del motore con la combustione appunto interna. Quindi turbo folk è la combustione del popolo. Sfacco pospissivagna e toxagorievagna e turbo folk. Quindi ogni stimolo a questo tipo di combustione è turbo folk. Insomma, dà tutta una sua spiegazione di quello che vuol dire appunto il turbo folk, che appunto fa leva, come dire, sui bassi istinti, sul neoprimitivismo, diciamo, su tutti quegli aspetti negativi. Mi sta guardando. Che abbiamo... Esatto. No, però Guardo la reazione più che altro. No, vorrei dire che un elemento interessante di questo appunto primitivismo che tu dici, che poi effettivamente questo termine che lui ha inventato, peraltro penso proprio in questa canzone, sì, è stato accolto molto bene da chi produceva turbo folk e che quindi lo utilizza abitualmente. Cioè dei cantanti turbo folk che si autodefiniscono cantanti turbo folk, non certo, se ne vergognano per nulla, anzi gli è piaciuta moltissimo questa definizione, che effettivamente secondo me anche descrive davvero molto bene. Infatti lui è un grande, descrive davvero molto bene che cos'è il turbo folk, che peraltro non abbiamo ancora sentito, quindi io inviterei a mettere finalmente un pezzo veramente turbo folk, così mi fate contento, perché insomma sono venuto fin qua. Vabbè, cosa abbiamo? Abbiamo una mitica Seca Alexic con Aspirin, ecco, che è uno dei pezzi andiamo, più cioè... belli della storia del turbo folk. Mamo bolja od vina, a nigde aspirina, sinoć bila sam sa tobom pijana, na podu posteljina, u sobi punoj dima, slika poznata, to je prevara. Kaže ide bićeš dobra za mena. U diskoteci pravo ludilo i grem se sad probudio dok ti snimaš me. Ma hajde priđi mi bezobrazno jer ljubav to je prolazno. Znaj, ja pristajem na sve. Glavom bolja od vina, a nigde aspirina. Sinoć bila sam sa tobom pijana. Na podu posteljina, u sobi punoj dima. Slika poznata, to je prevara. Glavom bolja od vina, a nigde aspirina. Sinoć bila sam sa tobom pijana. Na podu posteljina, u sobi punoj dima. Slika poznata, to je prevara. Ne znam ti ni ime, al nekajem se ne. Alexic con aspirina. Cioè, voi non sapete cosa non è successo. Abbiamo ballato tutti qua. Qua sui tavoli. Solo io veramente, però. Ecco, infatti. C'era sì, la compagna Jasna Shuma che era terrorizzata. È più che altro sgomenta. No, infatti vi abbiamo già accennato che appunto trattiamo un genere orrorifico. Ma torniamo appunto a parlare di questo, come chiamarlo, fenomeno appunto. Diego, tu volevi fare una domanda di approfondimento a Eric? Sì, anche perché dopo che avete tradotto il testo di una parte di questa canzone ci sta proprio. No, io, la curiosità è questa, mi sembra che l'elemento nazionale, popolare, grezzo, de panza di questa musica sia decisivo, prorompente. Io volevo chiederti se l'impressione che ho è cioè che nei paesi dell'ex Jugoslavia o ti piace il turbo folk o lo odi completamente, e di solito chi non lo sopporta è a tendenze direi più filo occidentali, più liberali come ideologia. Se è un'impressione giusta oppure se è più variegata la situazione. Sì, no, sono abbastanza d'accordo e devo dire questo in qualche modo conferma anche quello che dicevo prima sull'elemento di resistenza culturale e di balcanismo, diciamo. Quindi sì, si prendono degli elementi dall'Occidente ma alla fine si trasformano e si rende questa roba propria, cioè questa è roba assolutamente balcanica, non può essere confusa con nient'altro. E, però d'altra parte c'è anche un elemento che questa secondo me è anche l'unico genere musicale, ma in qualche modo anche l'unico elemento culturale che ancora che oggi unifica in qualche modo lo spazio ex jugoslavo dal basso, però. Cioè non è un elemento elitario, non è una cosa che quattro intellettuali si spartiscono e si considerano ancora jugoslavi perché così gli piace. No, è una cosa che ai tamarri di tutta la ex Jugoslavia piace, cioè sostanzialmente questo. E questo vale dalla Macedonia alla Slovenia, addirittura ho conosciuto diversi ragazzi della minoranza slovena di Gorizia e di Trieste che ascoltavano le stesse canzoni che ascolto io, Turbo Folk, che in verità sono in prevalenza prodotte in Bosnia, in Serbia e in Montenegro, ma comunque esistono e sono diffuse in tutto lo spazio. Esiste per caso un turbo folk di natura opposta, cioè che sfrutta questo tipo di musica per invece, insomma, antisistema, antinazionalista? Ti piacerebbe tanto, Diego, ma ti piacerebbe tanto. Musicalmente ne potremmo discutere perché sono dolori, però no, io ne sarei entusiasta, devo dire, invece personalmente, ma purtroppo no, devo ammettere che no. Diciamo, la musica politica, me lo confermerete voi che siete più esperti di me in questo campo, direi che la musica politica prevalentemente è musica hip hop, o musica rock, cioè c'è il caso, non so, Dubbiosa Collective in Bosnia, che, oppure appunto ad esempio c'è un hip hop nazionalista molto presente in Serbia. In realtà la musica turbo folk, pur essendo appunto molto vicina agli ambienti nazionalisti, agli ambienti appunto come gli ambienti criminali, spesso sono anche gli ambienti nazionalisti, ma non veicola nessun tipo di messaggio politico, neanche di quel tipo, insomma, neanche, cioè alla fine è puro divertimento sostanzialmente. Sì, appunto il testo di questa canzone che non abbiamo tradotto, ma forse lo testimonia. Insomma, sì. Si parlava di prendere un'aspirina dopo una serata in discoteca, sì, sostanzialmente. Ma diciamo che però due obiezioni avrei. La prima è che sia un fenomeno dal basso è un po' discutibile, cioè nel senso è un genere che è stato spinto in maniera massiccia con dei grossi capitali appunto negli anni 90 da alcune case discografiche, da alcune emittenti televisive, tra cui Pink, la televisione famosa appunto per fare, perché faceva parte dell'impero economico di Milosevic. Sì, scusami, io dal basso intendevo per quanto riguarda il pubblico, sì. Sì, gli ascoltatori, non ovviamente, assolutamente come dici tu. Sì, sì, ecco, quindi vabbè, c'è questo pubblico appunto che però è insomma è una massa un po' informe che accetta quello che gli è stato imposto un po' dall'alto, no? In qualche modo. Sei un po' snob a dir così, però insomma. C'è Eric, ecco, che mi guarda e sorride, cerca un aiuto. Viene in mente quando, avete presente quando Rumiz descrive il fatto che a un certo punto Milošević e il suo popolo si sono riconosciuti, no? Si sono visti e si sono riconosciuti. A un certo punto è successo questo, probabilmente a Kosovo Polje, ma insomma più o meno in quel momento lì. Forse anche con questo tipo di musica è successa la stessa cosa, cioè nel momento in cui un certo tipo di idee, un certo tipo di rigidità nazionalista è emerso e si è fatto sempre più grande, anche culturalmente e quindi musicalmente doveva essere trasportato, e il turbo folk lo ha trasportato, e quindi chi nella popolazione si è sentito più appartenente a quella etnia o quell'altra etnia lo ha fatto proprio. Sì, però appunto c'è questo elemento anche del puro divertimento, che poi alla fine è l'elemento centrale, secondo me. Cioè che forse ha anche a che fare con quello che diceva Dusko adesso sul fatto che sia stato portato avanti con grandi capitali da grandi produzioni, perché alla fine c'è, cioè, quello che interessa poi sono i soldi, money is money. Quindi, sicuramente, cioè, diciamo, funziona al di là del fatto che abbia veicolato un'identità, eccetera, perché alla fine ci si diverte, chi se ne frega. Sì. No, la funzione politico-ideologica del turbo folk secondo me si è esaurita un po' negli ultimi anni, è diventato soltanto un grande business appunto dal momento che anche si ascolta in tutte le repubbliche ex jugoslave, anche in Croazia, che diciamo si è sempre distanziata da questi elementi orientaleggianti, si dissociano dall'identità balcanica, sono occidentali, si sentono così, e invece va di moda anche lì appunto questo, ecco, dimostra diciamo una certa trasformazione. Per quanto riguarda le culture giovanili, sì, quello che dicevi tu, c'è questa distinzione. Negli anni Ottanta c'era l'antagonismo tra i rocchettari e i narodnjaci, cioè quelli che ascoltavano la musica neofolk, che appunto si guardavano in cagnesco, frequentavano ambienti completamente diversi, insomma sentivano proprio come appartenenti a due mondi diversi, diciamo. Sì, Vale, tu volevi aggiungere qualcosa? No, io, che mi è stato dato l'ingratissimo compito di coordinare perché insomma questa sera ci sono tanti ospiti, tante belle cose da dire, l'unica cosa che volevo fare è fermarvi e mettere un pezzo di Zezza, tra l'altro. Ecco, vai, andiamo proprio sul pesante. Andiamo sul pesante e rimanderei un attimo, farei tirare su un sospiro di sollievo ai nostri radioascoltatori e rimanderei la discussione a insomma fra qualche minuto. Allora, questa è Zašto me u obraz ljubiš, neću da mi budeš druga, perché non è millimetar i poljubac će biti dug. Ragazzi, è Tania Savic. Proprio questo. Non è Zezza, mi spiace. Dimostra quanto è. Però la voce di Zezza è uguale. Poi vi racconterò uguali, una storia, dai, su questa canzone che è fondamentale per capire perché l'abbiamo scelta. Sì, mi dai ne pricia. piaciuto a mi Budeš Drug, Tanja Savić, come mai Tanja Savić questa sera, tra l'altro ha la voce identica a Zezza, poi sono tutte uguali queste voci, non sì, si, questo, non si questo è il segreto, in verità sono tutte uguali, solo che ogni anno ce n'è una nuova e nel 2005 questa era quella nuova di quell'anno, l'ho scelta perché insomma mi ricorda un momento, diciamo l'apice della mia carriera di viaggiatore nei Balcani, di cui ho parlato nel mio libro che tutti i nostri ascoltatori andranno a comprare immediatamente, si chiama Nema Problema. Tutti i nostri ascoltatori hanno già letto, hanno già letto, duplice copia, esatto. E no, e questa canzone mi ricorda appunto questo momento in cui mi trovavo con la mia attuale moglie nel nostro primo viaggio, una specie di viaggio di nozze. Scusa, nei Balcani. Attuale moglie come se ne avessi avuti altre sette, no, prima. Sempre lei, l'unica. E quindi insomma ci trovavamo nel nostro primo viaggio nei Balcani insieme e ci siamo trovati praticamente circondati da un gruppo di signori di una certa età che si sono rivelati essere ex alti ufficiali dell'esercito serbo-bosniaco, questo appunto 10 anni dopo la fine della guerra, ma comunque insomma gente di un certo spessore, che costringevano la cameriera del bar a mettere continuamente questa canzone che avremmo sentito tipo 100 volte consecutivamente bevendo 100 grappe insieme a loro, e praticamente ci hanno poi convinti ad andare a trasferirci a casa loro dove abbiamo passato la notte continuando a bere grappe, continuando a ascoltare questa canzone, che peraltro ci hanno anche spiegato loro il testo mimandoci, perché il testo dice appunto Zastu me roba su Ljubiš, ovvero perché mi baci sulle guance e non ti sposti di pochi millimetri per baciarmi sulle labbra. Quindi questi vecchi generali ubriachi, che profondità, ragazzi, ex criminali di guerra, no, che ci spiegavano come baciarsi sulle labbra invece che sulle guance, è stata una scena molto io comica. Questa cosa la trovo, cioè, non essendo un amante del turbo funk, trovo questa parte di testo intelligente, sottile. In una canzone italiana una frase del genere non ci sarebbe mai, quindi ma beh, figuratevi, meglio Tanja Savić della Pausini. Immaginate un Ramazzotti che dice tipo avvicinati a di questo tipo, cioè. Grazie Diego, non importa, no, non proseguire. Va bene, allora che pezzo abbiamo nella nostra scaletta? Tra l'altro la nostra scaletta quasi interamente scelta da VJ Erk, appunto Eric Gobetti. Il prossimo brano è di Davor Badrov, Barabasa Balkana. E come mai hai scelto questo pezzo? Ma non me lo ricordo sinceramente, sentiamolo, poi magari mi viene in mente. Va bene, allora. Intitolata Il farabutto dei Balcani. Come mai? Il titolo è bellissimo, oggettivamente. Barabasa Balkana. Lude noći prije, ne dočići mi glave. Lijepe žene balkanske, crne ili plave. Svake noći ljubim ja, pijem s drugovima, za provod mi smo prvi, a to nam je u krvi. Baš je luda ova noć, niko više ne spava, samo glava pijana, opet bi te ljubila. U ruci puna čaša, tjesna je kafana, ti znaš kada luduju momci sa Balkana. Želim drugi svijet, niti njegov lažni sjaj, sve je ovdje moje, znaj. Tamo gore vrijeme leti, proleti cijeli vijek, u srcu Balkan za uvijek. Lude noći prijane, doći će mi glave, lijepe žene balkanske, crne ili plave. Svake noći ljubim ja, pijem s drugovima, za provod mi smo prvi, a to nam je u krvi. Baš je luda ova noć, niko više ne spava, samo glava pijana, opet bi te ljubila. U ruci puna čaša, tjesna je kafana, ti znaš kada luduju momci sa Balkana. We'll be right back. Balkan za uvijek. Moza društvo daje sve i do zore lupuje. Ko ti kaže da te voli samo kad se napije? Za ljubav glavu gubi i ponos nikad ne da. Čak i kad te ljubi, baraba drugu gleda. Noi stavamo tranquillamente ballando e cantando al ritmo della canzone precedente, no, quindi ci siamo assolutamente dimenticati di aprire i microfoni. Beh, quindi Eric, dicevamo, abbiamo ascoltato Baraba Savalcana, sì, questo Savalcana. Pezzo sì, mi sono ricordato perché l'avevo scelto, rispondere alla tua domanda, no, perché effettivamente dà l'idea anche dell'elemento più folk che esiste nel turbo folk. Prima abbiamo ascoltato due pezzi un po' più turbo, un po' più pop, diciamo. Questo effettivamente aveva queste sonorità un po' più folk, un po' più balcaniche, pur essendo comunque rientrando in toto nella categoria turbo folk. Va bene, ma siccome abbiamo citato Zezza poc'anzi e l'abbiamo citata insomma erroneamente, a sproposito insomma l'abbiamo come dire scomodata, cosa ci dici di Zezza? Zezza è un personaggio assolutamente contraddittorio, cioè per quanto insomma uno possa amare la musica turbo folk, però non può fare a meno di scontrarsi con la sua biografia. Sì, vorrei dire tra l'altro che anche Zezza ha una storia legata ai miei viaggi, perché l'ho incontrata a Belgrado davanti alla tomba di suo marito. E anche questo lo racconto nel libro Nema Problema. Sì, ero andato al cimitero dove è sepolto Arkan, senza sapere peraltro che lui fosse sepolto lì, non per cercare la sua tomba, non so per quale strana ragione, proprio il giorno del Natale ortodosso. E mentre passeggiavo tra le tombe, a un certo punto ho visto una tomba che era molto lucida, nuova, molto grande. Mi avvicino e ci ho messo tipo 10 minuti a leggere il cognome scritto in cirillico, con un mezzo busto dorato di Arkan, esatto, che fa abbastanza ribrezzo, vorrei sottolineare. Esatto, no, molto molto trash come tomba. E insomma, comunque mi metto lì a leggere il nome, e quando finalmente ho capito chi aveva davanti, mi giro e di fianco a me c'era una donna vestita di nero che stava depositando dei fiori sulla tomba, e non ho subito riconosciuto lei. Tra l'altro aveva due guardie del corpo che mi hanno subito circondato, mi hanno chiesto chi ero, eccetera. E insomma, quindi ho avuto modo di conoscerla e... non male, tra l'altro, insomma. E cosa vi siete detti, per curiosità? Nulla, perché io parlavo ancora troppo poco la lingua, e peraltro credo che lei non avesse nessuna voglia di parlare con me, quindi. Beh. In che cosa è contraddittorio come personaggio? Ma non è che insomma, è abbastanza coerente, nel senso che un personaggio... Non è contraddittorio, è coerente, insomma, contraddittorio non è la parola giusta. Tra l'altro, forse tu che bazzichi negli ambienti storici, ci sai dire se è stata coinvolta davvero nell'omicidio Gingic o meno? Ma secondo me è stata coinvolta nell'omicidio di suo marito. Io, la mia teoria è che lei che ha fatto fuori suo marito, perché dopo finita la guerra, diciamo, gli pesava avere come marito un criminale di guerra ormai riconosciuto in tutto il mondo, e quindi come dire, la sua carriera sarebbe stata appesantita. Invece da quando è morto suo marito, effettivamente lei è diventata una star ancora più famosa. E peraltro come dicevamo prima, anche lei, pur essendo la moglie di Arkan, quindi voglio dire un personaggio più compromesso possibile con il nazionalismo serbo, con i criminali di guerra serbi, ciò nonostante è famosissima anche appunto in Croazia, in Bosnia, e viene straascoltata in tutto lo spazio ex jugoslavo, insomma. Tra l'altro il nostro ormai diciamo inviato speciale da Bagnaluca ci racconta di un episodio realmente accaduto, cioè di Zezza, cioè, insomma, del, appunto, riguardante Zezza. Pare che Sgarbi avesse fatto all'epoca carte false con l'ambasciata serba, perché voleva portare Zezza a Sanremo in Italia. non gliel'hanno data il, appunto, il permesso di viaggiare, quindi il permesso di ottenere il visto, perché era sulla lista nera per ovvi motivi. Non poteva che essere Sgarbi. Sgarbi è turbo folk, il traghettatore, con il suo spraitare, no, con il suo Sgarbi Caronte. Assolutamente, Sgarbi è turbo folk secondo me, e non è affatto un caso infatti che sia stato proprio lui a fare questo invito. E forse Silvio anche è un po' turbo folk. Sì, è un turbo folk all'italiana. Ah, sì, insomma. Silvio apprezzerebbe la cantante di turbo folk, diciamo, quello sicuramente, sono proprio il suo genere, esattamente il suo genere, perché non abbiamo detto questo dettaglio che ovviamente io quando faccio il VJ non c'è neanche bisogno di spiegarlo perché si vede, ma in radio non potete vederlo, ma insomma i video di queste cantanti turbo folk che non sono solo donne, ma insomma in larga maggioranza sono donne, e hanno questa caratteristica insomma di presenza scenica molto, molto esplicita, e insomma mostrare il proprio corpo in maniera molto esagerata, e che è sicuramente il genere di cose che piacciono molto al nostro caro Silvio. E qui ci cade a pennello Severina Vučković, perché è insomma la prossima canzone che andremo ad ascoltare è proprio di Severina. Severina è una cantante croata, non ricordo esattamente di dove. Dalmatina, di Spalato, sì. Credo. Ah, proprio di Spalato. Credo, sì. Insomma, Severina, voi tutti sapete, no, o forse non tutti sanno, che è stata appunto vittima di uno scandalo, perché è stato pubblicato un suo video mentre un suo video porno, insomma, che io oggi pomeriggio mi sono andata a guardare perché non l'avevo mai visto. Tutti mi parlavano del video porno di Severina, ho detto, ma qua è una storia vecchia di non so quanti anni, ragazzi, una decina d'anni. Ci arrivo anch'io in ritardo, ma no, bisogna dire che però quel video ha veramente cambiato la sua carriera, perché pur essendo lei già molto nota prima, sicuramente il video l'ha resa ancora più nota. E beh, lei tra l'altro è, diciamo che è dubbio se possa rientrare in qualche modo nell'ambito turbo folk. Io credo che si stia turbo folkizzando, diciamo così, negli ultimi anni, nel senso che il suo genere musicale sta passando da un pop più classico a un turbo pop che ha delle sonorità folk, che quindi, e questa canzone, certo, diciamo, che ascoltiamo che è sicuramente è quella. Un po' il suo personaggio essere turbo folk, forse, sì, cioè, quello senz'altro. più che la sonorità è lei stessa ad essere turbo folk. Va bene, quindi questa è Gas Gas, Severina. Iska mi ona, cosceceri a pievai u šoferi. Nek se živi, bako preživi. Šoferi, šoferi, ej da vas je više. Volim, volim, volim, volim, volim, volim, volim, volim. Volim kad na muško miriše. Ajde, ajde, nije. questa era Severina con Gas Gas, una delle mie canzoni preferite ever. Evviva, brava. L'ho detto. Contenti ever, scusa. Parlo come i ragazzini turbo folk nelle strade di Belgrado. Racconta sempre il nostro inviato speciale da Bagnaluca che pare che ci fosse una storia d'amore proprio fra Severina e Goran Bregovic, che è l'autore di questa canzone, vorrei dire, l'ha scritta lui. Non poteva scriverla Severina, in effetti, però un bel testo, a me piace, mi sento un po'. La metto sempre quando guido. Eh beh, ci sta, vero? Quindi guidi tipo a 140 all'ora. 140 all'ora, ascoltando Severina. Anche a te ti piacciono gli uomini che puzzano di benzina, no? Come dice il testo. No, il testo in realtà forse di. Ah, sì, è vero, dice che mi piacciono gli uomini che puzzano di benzina. Sì, sì, sì. I meccanici. Anche, sì, sì. Bene, andiamo avanti sempre a parlare di Turbo Folk. Tra l'altro volevamo farvi ascoltare anche qualche pezzo che non fosse strettamente dell'area della Jugosfera, ma che fosse di altre zone, come le Manele. Le Manele sono insomma il Turbo Folk romeno, oppure la Cialga, che è il Turbo Folk bulgaro. Andrei prima di tutto a parlare di Manele, che al singolare si dice Manea, è appunto uno stile balcanico di musica derivato principalmente dalle canzoni d'amore turche, greche, arabe e anche serbe. Il genere si è particolarmente sviluppato in Est Europa, ma in gran parte in Romania. Viene considerato da alcuni intellettuali una forma di sottocultura, esattamente come viene considerato da alcuni intellettuali il turbo folk. Alcuni intellettuali presenti a questo tavolo, tra l'altro, di cui non faremo il nome, intellettuali provenienti dal Montenegro. Non ce ne sono qua dentro di intellettuali provenienti dal Montenegro, comunque. Va bene. Dunque, si tratta di un fenomeno musicale che, sebbene più probabilmente in Romania, comunque esiste anche, come dicevamo, in Bulgaria, in Serbia, in Albania, in Bosnia, in Montenegro, in Grecia e in alcune zone della Turchia. Mi dispiace tra l'altro che questa sera non riusciremo a mettere tutto, non riusciamo a mettere anche dei pezzi greci, dei pezzi turchi, ma sarebbe davvero interessante vedere la tanto mi invitate la prossima settimana, no? D'ora in avanti sarà sempre Turbo Folk, la Balkan, certo, Rock. Dusko avrà un impegno la prossima settimana, però sì. Esatto, i nostri ascoltatori fuggiranno. I testi delle canzoni, esattamente come nel turbo folk, si riferiscono solitamente ai temi dell'amore, dei nemici, dei soldi, dell'alcolismo e delle difficoltà della vita in genere. Alcune canzoni poi sono specificatamente dedicate alle feste, alle nozze, ai funerali e così via. I cantanti di Manele, questa è una cosa molto interessante, specifica della Romania, che appunto in ex Jugoslavia non esiste, adottano generalmente un nome d'arte, quale per esempio Adrian Copilul Minune, Adrian il bambino incredibile, Adi della Valcea, Adi da Valcea, Vali Vieglie, Vali la tempesta, in questo caso il nome reale è Valentin Russu, conosciuto anche come Ciuara, Florin Fermecatoru, cioè Florin l'affascinante, Sorinel Puștiu, Sorinel il ragazzo, Stefan della Barbulești, Stefan da Barbulești, ma sentite questa, Florin Salame. Oppure Ian della Craiova, Ian da Craiova, Copilul de Aur, il bambino d'oro. Tra i pochi artisti significativi del Manele, che si chiamano appunto manelisti in romeno, che non adottano nomi d'arte, ci sono Costi Ionizza e Nicolae Guzza, il quale comunque successivamente ha ammesso che il suo nome reale è Nicolae Linguraru. Quindi i cantanti maschi di Manele spesso adottano sicuramente un look particolare, esattamente come il look turbo folk, che è diventato un fenomeno di moda e a volte sfoggiano automobili di lusso come tipo Mercedes classe S o la BMW. E allora andiamo ad ascoltarci proprio Nicolae Guzza con un pezzo che si intitola Am citit in oroscopo, ho letto nell'oroscopo. Thank you. viața mea. E ziua în care am greșit în fața ta. Astăzi plătesc cu lacrime amare. Fiindcă am vorbit la supărare. Aș vrea să-și depozit din trecutul meu. Acum am înțeles că fără tine e greu. Am spus o vorbă de la locul ei. Și-ai dispărut din ochii mei. Am citit în horoscop. Fantastico. Sono veramente, sì, sono veramente un pezzo provato. Mi è piaciuto a Dusko. Sono stato veramente messo a dura prova stasera. Sono esausto, non ce la faccio più. Adesso vado a casa, mi metto in cuffia i Napalm Death o gli Slayer per ripulirmi le orecchie da questa roba. Bene, allora stiamo finendo finalmente di parlare del Turbo Folk. Però prima volevo dire un'ultima cosa, che all'ombra di questo genere negli anni 90 erano nate due subculture giovanili, cioè erano, la prima di cui volevo parlare sono i cosiddetti dieselasci. Che cosa sono i dieselasci? Era appunto questa moda che si contraddistingueva per alcuni aspetti specifici, a parte diciamo gli stili di vita legati ai soldi facili, ad uno stile di vita appunto violento. Si vestivano in maniera veramente singolare e particolarmente brutta, perché usavano mettersi dei vestiti sportivi tipo delle tute, A volte con sopra la camicia, quindi una cosa proprio che cozza dal punto di vista estetico, non ha nessun senso. Oppure usavano infilare la parte superiore della tuta dentro i pantaloni a vita alta, aprendola, no? Aprendo la cerniera per esibire una gigantesca collana d'oro, un po' come appunto si parlava fuori onda, un po' come usano a fare alcuni rapper, no? Afroamericani, statunitensi. Diciamo ci sono questi due modelli. Al maschile c'era il Dizelash, il violento spacciatore con il macchinone, la catenazza d'oro che ascolta Turbo Folk, e al femminile era declinato come sponsorusha, cioè colei che ha uno sponsor, cioè la ragazza facile che vive in per, diciamo, assecondare i propri bisogni di vestirsi alla moda, di essere trendy, di essere figa, doveva trovarsi uno sponsor, possibilmente un Dizelash ricco che insomma spaccia con successo, contrabbanda armi, oppure aspira a fare, diciamo, uno di questi mestieri, e possibilmente va in giro con un'auto molto costosa. Con un'auto molto costosa. O comunque non tutti erano così, cioè negli anni 90 cani e porci erano Dizelash, quindi c'erano anche dei poveracci che aspiravano a fare tutte queste cose, ma non ne facevano nessuna. Ma abitavano nessuna, a Novi, cioè, Beograd. Quindi, esatto, si limitavano a vestirsi da pagliacci e esibire, diciamo, certi comportamenti, senza però, diciamo, avere tutti sti soldi in tasca. Quindi era questo, insomma, per immergerci un'altra volta in questo sottobosco degli anni 90, quindi adesso possiamo anche parlare finalmente d'altro, no? Se vuoi possiamo anche parlare d'altro, tanto la scaletta è Turbo Folk per tutta la puntata, quindi mettiti l'anima in pace. Va bene, allora andiamo a cambiare argomento, parliamo insomma un po' con Diego e Chiara della loro esperienza. Diego e Chiara sono stati da noi a Balkan Rock alla fine di giugno, proprio prima della loro partenza per Niche, dove si è svolta, diciamo, la parte principale del progetto Niche 1 escluso, ma sono stati anche a Sarajevo, Belgrado e in altre città, insomma. Diego, facci un attimo un riassunto di com'è questo progetto che si intitola Nessuno escluso, per gli ascoltatori, insomma, che non hanno seguito le puntate precedenti. Allora, Nessuno escluso nasce per la collaborazione dell'associazione Terra del Fuoco, che a Torino lavora su vari fronti, tra cui i Rom, e con il progetto Treno della Memoria, per cui i ragazzi, gli studenti delle scuole superiori vengono portati a visitare i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Anche il comune di Collegno in qualche modo ha partecipato a questo progetto, e l'idea era quella di aprire le porte della Jugoslavia a delle persone che sono nate esattamente negli anni in cui la Jugoslavia ha cominciato a deflagrare, e cercando in una prima parte del viaggio di visitare nei pochi giorni, diciamo, alcune città come Belgrado, Sarajevo, siamo stati anche a Srebrenica, per poi approdare a Niche, dove l'associazione di Niche che conosciamo e salutiamo, che è l'associazione Indigo tenuta da Tamara e Peter, ci ha accolto. E Indigo è un'associazione che lavora, diciamo, con i Rom, ha una propria sede di fronte ad uno degli accampamenti Rom, diciamo così, o settlement come amano dire, e per 5 giorni di attività assieme a loro, e è andato molto bene, molto molto bene. Beh, abbiamo visto le foto, abbiamo sentito anche in qualche modo il report di una ragazza proprio di Collegno che qualche giorno fa ha presentato il progetto in nell'aula del consiglio comunale. Quindi sappiamo che sicuramente i ragazzi che sono venuti con te, perché tu sei stato insieme a Chiara, sei stati insomma le guide di questo progetto, sappiamo che sicuramente i ragazzi sono tornati molto molto entusiasti al progetto. Ci sono possibilità che questo progetto negli anni prossimi continui oppure no? È auspicabile. Prima di tutto è auspicabile. Ti ho messo in difficoltà con questa domanda trabocchetto. Diciamo che come si può capire non dipende totalmente dalla volontà né mia né di Chiara, nel senso che noi ci possiamo mettere braccio e gambe, volontà, testa per fare questa cosa e vedremo. C'è bisogno che qualcuno sia interessato a questo. I ragazzi di per sé, la maggior parte dei quali sono educatori del treno della memoria, animatori del treno della memoria, si sono trovati molto bene, perché nella prima parte del viaggio hanno affrontato, dopo la formazione diciamo precedente al viaggio, hanno affrontato tre città particolari: Belgrado, Sarajevo e Srebrenica, e quindi insomma sono state delle belle botte, delle belle esperienze. Il cuore del viaggio, secondo me, poi Chiara magari può confermarlo, è stato comunque Nisch, perché convivere per 5 giorni con eravamo una quarantina di persone alla fine, c'erano un bel po' di italiani, un po' di serbi e un po' di rom, e c'è stata una magia, cioè la magia dal pulire, rimettere a posto questo luogo, tagliare l'erba, costruire tavoli, metterli a posto, ad alcuni workshop artistici di teatro, musica, danza. Chiara ha partecipato, infatti le vorrei passare la parola perché così ce li descrive. È stata una magia, bellissimo, persone che non si conoscevano. Io dico solo una cosa per non dilungarmi troppo, un progetto che termina con una festa gigantesca dentro una casetta di legno di fronte al più grande campo rom, uno dei più grandi campi rom di una delle città con una delle più grandi comunità rom in Serbia, quindi che termina con una festa gigantesca con bambini, ragazzini di tutte le età, madri, genitori, italiani, rom, serbi che ballano la Macarena, ecco, secondo me è impagabile, e quindi questo deve essere l'auspicio per il prossimo anno. La Macarena. La Macarena, ragazzi, la Macarena unisce i popoli. Turbo folk sudamericano. Esattamente. No, beh, sicuramente con questa immagine ci hai dato abbastanza l'idea di quello che è avvenuto. E cioè si può fare, questo è il nazionalismo è una emerita cazzata, se si può dire, usare questa parola. Non lo cioè, so, se si può. È scientificamente. Secondo me in questa radio si può. Insensata, proprio senza senso. Quello che si è creato, cioè persone, come potete immaginare, i ragazzi italiani, non è che nella loro vita chissà quanto tempo avessero passato con i rom, insomma, e quindi dei rom se ne aveva e se ne ha soprattutto un'idea, anche pregiudizio, insomma, immaginifica, astratta. E insomma, io a un certo punto non c'era nemmeno più, come dire, la differenza, le persone, cioè c'era la differenza, ma le persone si sono avvicinate, si sono piaciute ed è andata molto bene. E quindi speriamo di poterlo rifare, speriamo di portare mandriate di italiani a Nisch o in Bosnia, perché poi naturalmente c'è stato anche un post, abbiamo raccontato queste cose durante il viaggio di ritorno ad alcuni nostri amici bosniaci che a Jajce fanno già queste cose, cioè a Jajce nel centro, Planinarski Dom di Aiz, vengono fatti dei progetti con persone che provengono da Srebrenica e dalla e da Banja Luka e da Aiz stessa, quindi insomma vuol dire che c'è qualcuno che lavora cercando di unire cose che altrove, diciamo, vengono lasciate divise e lontane tra di loro. Non sono parole al vuoto, sono proprio cose reali, vere, successe, quindi ci no, credo. Lo sappiamo molto bene. E grazie per, tra l'altro, per averci raccontato di come è andata a finire, perché è molto importante che questi progetti vengano raccontati, perché sennò non hanno neanche poi così bisogno. È vero. Ragion d'essere. Infatti sono anche contenta di aver sentito appunto i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto tornare, insomma, mostrare le foto, vederli entusiasti dell'esperienza che hanno passato e fare anche delle considerazioni sulle differenze che ci sono nella percezione dell'altro in quanto Rom in Serbia e invece in Italia, dei diversi livelli di integrazione della popolazione Rom. Ma prima di continuare questo discorso andrei ad ascoltarmi Aziz, che è un cantante sempre, insomma, turbo folk, però lo definirei, come essendo bulgaro, cialga, cioè una forma di turbo folk bulgaro fondata sempre sulla musica tradizionale balcanica, che incorpora sempre elementi arabi, turchi, greci, come anche motivi del flamenco, della musica klezmer. Lui è Aziz, quindi con un pezzo Tisi Moi Grek, cialgagia per eccellenza di tutta la Bulgaria. Thank you. questa era Tissimo Y di Aziz. Cosa stavamo dicendo? Microfoni spenti, perché stavamo anche guardando Aziz e il suo video, perché è interessante, no? Sì, lui secondo me, una cosa che non abbiamo detto, che sostanzialmente è un transessuale. Questo è l'elemento significativo di questo personaggio, che al di là del punto del genere musicale bulgaro, che alla fine appunto è molto simile a quello jugoslavo, ma anche a quello rumeno che abbiamo ascoltato prima, però appunto c'è questa peculiarità, che questo personaggio, questo transessuale, che in realtà è più femminile, addirittura riesce a essere più femminile delle cantanti donne del turbo folk, e peraltro io per scherzare dico fa concorrenza sleale, perché lui può mostrare il seno mentre le donne no, per cui ci sono questi video in cui lui si palpa il petto in maniera sconcia, che sono abbastanza imbarazzanti, e che appunto ovviamente le donne turbo folk non possono permettersi di fare. Il problema, non me ne vogliano, insomma, non voglio farne un discorso chiaramente anti-transgender, lungi da me. Il problema di Aziz è che lui tiene la barba. Ed è una cosa inconcepibile, perché comunque tutti i trans del mondo la prima cosa che fanno, no, è togliere via i peli superflui. Invece lui tiene la barba come segno di riconoscimento. Sì, non so se è cominciato lui o la transessuale che ha vinto Eurosong quest'anno è Concita, grazie, non no, mi veniva. Ecco, no, assolutamente iniziato Aziz. Ha cominciato, sì, e quindi allora Concita ha copiato questo, evidentemente. Sì, Concita ha assolutamente copiato Aziz su questo. Ne sono abbastanza certa. Tra l'altro ricordiamo, nato a Silven in Bulgaria il 7 marzo 1978, proviene da una famiglia rom ed ha partecipato al Grande Fratello romeno, scusate, bulgaro. Alla fine del novembre 2007 fece scandalo quando Boyko Borisov, all'epoca sindaco di Sofia, scelse di distruggere tutti i manifesti in cui Aziz era rappresentato mentre baciava suo marito, tra l'altro con cui si è sposato a Londra. Quindi ha fatto un bel po' di scalpore questo Aziz in Bulgaria, nonostante in realtà non abbia, insomma, continui la sua carriera abbastanza indisturbato. Probabilmente parlavamo prima del fatto che in Bulgaria l'omofobia è leggermente più a livelli meno preoccupanti della zona della Serbia o comunque della jugosfera. Cosa ne dici tu? Non so, io personalmente non ho tanto il polso della situazione, cioè conosco più la realtà appunto serba, dove sicuramente questo è un problema. Io credo che sia anche molto legato a una continua necessità di mostrare i muscoli, di rappresentarsi in maniera mascolina da parte della società serba in generale, di fronte al fatto che, come dire, è una società in qualche modo sempre in guerra, cioè che si è trovata sconfitta in tutte le guerre negli anni 90. In qualche modo si sente ancora, vive ancora in questa sensazione di essere circondata, di essere ghettizzata dal resto del mondo, in particolare dall'Occidente e dall'Europa, e quindi forse c'è più questa necessità, che ovviamente la Bulgaria, che fa parte dell'Unione Europea eccetera, forse sente meno. Questa è un'interpretazione mia, ma non so quanto possa essere. Va bene, può essere un'interpretazione. Dule, tu che ne dici? Beh, sì, sono abbastanza d'accordo con Eric. Poi non ho molti elementi, cioè non conoscendo, non avendo viaggiato, cioè il contesto bulgaro un po' mi sfugge, non saprei quale sia poi effettivo livello di tolleranza. Forse bisognerebbe conoscere questa cosa per capire quanto di questa provocazione è legata e trainata anche da cose occidentali, cioè nel senso quanto Aziz, che magari si è sposato a Londra perché poteva farlo in tranquillità e senza troppi problemi, cioè quanto queste cose che stanno emergendo in paesi comunque difficili, possiamo dirlo, no? Per queste cose siano trainati da cose occidentali. Sono fenomeni contraddittori, non riesco ad avere una visione, diciamo, unica, perché cioè, questo machismo però transessuale, però sì, ma infatti di... vedendo i video di Aziz è proprio evidente come il modello comunque culturale sia esattamente lo stesso del Turbo Folk, quindi comunque un modello culturale molto maschilista, però comunque messo in gioco da un transessuale, quindi è un po' ambiguo, sì, è difficile. Ma adesso tutti i nostri ascoltatori bulgari ci scriveranno immediatamente nella nostra pagina Facebook per farci sapere, no? Oppure ci criticheranno perché non abbiamo capito niente di questo Bulgaria fenomeno. Magari invece è un fenomeno di apertura totale da parte delle società balcaniche, per l'appunto. Non c'entra assolutamente nulla, ma una volta mi è successo proprio tantissimi anni fa, quando trasmettevo ancora Radio Blackout, cioè una trasmissione che si chiamava Radio Balkout, avevo osato dire che Tosh Proeski, tutti voi lo conosceranno, un cantante pop macedone che qualche anno fa purtroppo ha avuto un incidente stradale ed è mancato, avevo osato dire che aveva plagiato una canzone di Anna Tatangelo e l'avevo addirittura scritto nel mio blog, e c'è stato un'orda di fan macedoni di Tosh Proeski che insomma hanno lanciato una fatwa, inferociti, insomma non avevano colto il nonostante ovviamente, cioè forse trattasse di plagio, questo io lo sostengo tuttora, però non avevano colto in qualche modo l'ironia. Va bene, siamo agli sgoccioli, purtroppo andiamo ad ascoltarci uno degli ultimi brani che ci propone Eric. Lei è Neda Ukraden, Na Balkanu. Na Balkanu nema mira ni tišine, samo kraj tebe bih zaspala i smirila se ja. Na Balkanu lude noći, lude cure klubovi, a ja o tebi dušo sanjam, moj jedino si ti. Idemo provod da te volim ljubav staru, i baš na ovom mjestu da nam se oči sretnu sad. Ti si ovdje kraj mene, gdje si, kako živiš, jesi li dobro mili, nekada zajedno mi sretni smo bili, ali još si onaj stari koji uvijek vari sve. Čujem loše ti ide od kad drugi me vide. Tišine, ali sta, samo kraj tebe bih zaspala i smirila se ja. Na Balkanu lude noći, lude cure klubovi, a ja o tebi dušo sanjam, moje jedino si ti. Na Balkanu nema mira ni tišine, ali sta, samo kraj tebe bih zaspala i smirila se ja. Na Balkanu lude noći, lude cure klubovi, a ja o tebi dušo sanjam, moje jedino si ti. Jesi li dobro mili, nekada zajedno mi sretni smo bili, ali još si onaj stari koji uvijek vari sve. Čujem loše ti ide od kad drugi me vide. Na Balkanu nema mira ni tišine, ali sta, samo kraj tebe bih zaspala i smirila se ja. Na Balkanu lude noći, lude cure klubovi, a ja o tebi dušo sanjam, moje jedino si. Moje jedino si ti. Na Balkanu, na Balkanu. Questo era Nedo Kraden, sì, non è proprio una cantante turbo, ha fatto questo brano, ha fatto una svolta per fare i soldi, ormai al tramonto. Ma che è un'amica tua che stai cercando di... Ormai al tramonto della carriera, no, non la sto difendendo, non ha, semplicemente... Mi spiace contraddirti, però non ha fatto solo questo brano, negli ultimi anni... ha dovuto riciclare, al tramonto. Turbo folkizzata, come Severina, te l'ho detto, ma perché ormai il turbo folk domina. Dovremmo fare anche noi un gruppo turbo folk. Why not? Per fare i soldi, per lanciare in Italia e magari riusciamo finalmente a fare una svolta. Mettiamo Eric, gli mettiamo due tette finte tipo Aziz e facciamo, ecco, e facciamo il altro. Io vorrei scrivere il testo, secondo me sono portato per i testi, perché questi testi benissimo. Funzionano, sì. Potresti baciarmi un po' più a sinistra della guancia? No. Io ho la barba. Benissimo. Allora, purtroppo siamo giunti in chiusura della nostra odierna trasmissione di Balkan Rock. Tra l'altro vi invitiamo sempre a scriverci, insomma, le vostre impressioni quello che volete. Commenti, anche critiche, quello che volete. Quello che volete sul nostro gruppo Facebook Balkan Rock at My Radio, oppure sul nostro blog che è proprio balkanrock.noblogs.org. Ringrazio tantissimo Eric, grazie mille. Grazie a voi, è stato bellissimo. Alla prossima. Lo so che non mi inviterete più, però per me è stato bello lo stesso. È stato meraviglioso. La prossima puntata la facciamo tutta sulle tamarrate turche e greche, perché queste ci sono sfuggite. Anche che se meraviglia. Alla fine, in chiusura, mettiamo proprio un pezzo di Khaled. Lui è marocchino, giusto? È algerino. Proprio così per mostrarvi la somiglianza con le sonorità del turbo folk alle musiche arabe. Vi ringrazio anche Diego e Chiara, grazie mille. Tra l'altro Diego non potrà tornare prestissimo perché in questo momento vive in Polonia, ma appena torni a Torino sei nostro ospite. E invece Chiara l'aspettiamo, insomma, quando vuoi. Chiara, siamo certamente, grazie. Con Chiara, tra l'altro, e Diego, la scorsa puntata abbiamo letto un brano di Maksumić. Grazie, non lo ricordo mai. Non importa, ci siamo impegnati. Ci siamo divertiti moltissimo. C'è la luce da trans, Chiara. sotto l'effetto di Aziz. Aziz colpisce. Va bene, allora. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Questo è Khaled, Se la vi. Se la vi. Dovigenia. Yeah.